Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Olga ed Ebbe. Davanti alla stazioncina ferroviaria di Limbiate, Interland milanese, ci sono alcune panchine. Le panchine hanno ormai i colori dei nostri jeans. Lentamente è maturata la voglia di fare qualcosa di più, finalmente qualcosa. Si è troppo giovani per accettare di marcire. Così nell'autunno del 75 prendono vita i circoli del proletariato giovanile, promotori di decine di occupazioni di case sfitte, fabbriche abbandonate, stabili in disuso. Nella zona tra Lambrate e il Casoretto, quartieri della prima periferia nord di Milano, nasce il centro sociale Leoncavallo. La componente operaia e popolare, insieme all'alto grado di partecipazione politica, spiega l'emergere di una realtà variegata, trasversale a diversi gruppi della sinistra extraparlamentare italiana di quegli anni, e l'avvicinamento ad esperienze come questa di molti giovanissimi. Due di loro, Fausto e Iaio, sono passati alla storia come coppia inseparabile, vittima di uno dei tanti episodi della storia repubblicana sul quale si addensa una trama complessa di protagonisti, antagonisti e comparse, e che, al solito, è finita nel dimenticatoio. Fausto Tinelli e Lorenzo Iaio Iannucci erano due diciottenni del Casoretto. Da qualche mese i due avevano iniziato a lavorare, insieme a molte altre persone che gravitavano intorno a Leoncavallo, ad un libro bianco sullo spaccio di eroina a Milano. In quegli anni, soprattutto in un quartiere come il Casoretto, l'eroina stava raggiungendo un'espansione allarmante. Saranno in molti a ritenere che la diffusione di massa di questa sostanza fosse intenzionalmente programmata, con lo scopo di stroncare la vitalità di una generazione ribelle e altrimenti incontrollabile. Come se non bastasse, a molti non era sfuggito il collegamento tra elementi dell'estrema destra milanese e i figuri che si dedicavano maggiormente allo spaccio. Così Fausto e Iaio si erano messi a dare una mano per produrre una controinchiesta capace di capire e contrastare il problema. Il 18 marzo di 36 anni fa, Fausto aveva passato il pomeriggio al Parco Lambro con gli amici. La stessa passione che lo spingeva all'attivismo di quartiere con il Leoncavallo lo portava in quei giorni ad interrogarsi sul futuro del movimento e le sorti di quel grande rinnovamento che sembrava alle porte. Da due giorni, infatti, il volto del presidente della Democrazia Cristiana era su tutti i giornali. Aldo Moro era stato rapito dalle BR. A pochi passi dal Leoncavallo c'è un'edicola. Fausto e Iaio commentano la notizia. Appena si allontanano, intorno alle 8 di sera, diretti verso casa, tre uomini vanno loro incontro. Li chiamano e fanno fuoco con una berretta calibro 7,65. Radio Popolare, 18 marzo 1978. Radio Popolare, sono le 21:17. Interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, due giovani di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Leoncavallo, dove doveva tenersi un concerto di blues. I due stavano andando a questo concerto. I due compagni sono stati inseguiti da tre individui e sono stati uccisi a colpi di pistola. I loro corpi sono ancora per terra. Il corpo di Fausto è stato trasportato in ospedale, ma è morto durante il trasporto. Vi daremo maggiori informazioni man mano che ci arrivano. La reazione del movimento è immediata e rabbiosa. Si accusano subito i fascisti e per tutta la notte la città è attraversata da cortei che sfociano anche in danneggiamenti senza che le forze dell'ordine intervengano. Due giorni dopo, 100.000 persone partecipano ai funerali, nessuna bandiera, molti però gli striscioni dei consigli di fabbrica. Nei giorni seguenti, gli inquirenti escludono subito la pista politica e insinuano un improbabile regolamento dei conti tra gruppi della nuova sinistra. Una delle poche voci critiche su questa versione dei fatti è il giornalista dell'Unità Mauro Brutto, che conduce la sua inchiesta seguendo i collegamenti tra lo spaccio e i gruppi neofascisti milanesi e romani. Tuttavia, nel novembre del 78, proprio quando stava portando un corposo dossier al commissario della Digos, incaricato di seguire il caso, Brutto viene investito da un'auto e documenti contenuti nella sua valigetta scompaiono. La scomparsa di Brutto non è l'unico mistero insoluto di questa vicenda. Basterà ricordare la sparizione dei nastri relativi all'inchiesta sull'eroina a cui stava lavorando Fausto. Il materiale viene trafugato dalla sua camera due giorni dopo il delitto da individui mai identificati, ma che entrano in casa usando le chiavi, senza forzare la porta. L'omicidio di Fausto e Iaio viene rivendicato da un volantino dei Nuclei Armati Rivoluzionari ed alcuni esponenti di spicco di questa formazione neofascista saranno effettivamente indiziati, senza che nessun magistrato trovi le prove per incriminarli. D'altra parte, le indagini non faranno mai significativi passi in avanti, e nemmeno l'ondata di pentimenti che nei primi anni Ottanta travolgerà le formazioni dell'estrema destra farà emergere nulla di significativo. Il silenzio a poco calerà sull'inchiesta, definitivamente archiviata nel 2000, senza alcun processo. A ricordare Fausto e Iaio resteranno i loro compagni e le compagne del Centro Sociale Leoncavallo e la memoria antifascista. E con queste riflessioni vi salutiamo e vi invitiamo a visitare il nostro sito www.casos.org. Alla prossima puntata!